Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Questa è la festa che i giocatori del Chapecoense, squadra brasiliana che aveva insomma realizzato un sogno, un miracolo, quello di salire dalla Serie D fino ad arrivare alla finale di Coppa Sudamericana, l'avrete letto da più parti e sentito da più parti, stavano volando verso la Colombia, incidente aereo e tragedia per questa squadra, a cui va ovviamente il nostro abbraccio, così come un abbraccio sincero, mi scrive un ascoltatore, va a Marino Bartoletti, giornalista onesto e competente che ascolto sempre molto volentieri in questi giorni che sembrano davvero maledetti. Intanto temi di oggi, temi sportivi, c'è l'Inter che fa Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che gioca un meraviglioso inizio di partita con la Fiorentina, va in vantaggio 3-0, poi rischia fino a vincere 4-2, ma comunque il tutto nel segno di Icardi, una squadra che è ancora difficile da leggere, una squadra che comunque, questo è facile da leggere, prende troppi gol, 7 nelle prime 3 partite di Pioli. Un grande dell'Inter, Riccardo Ferri, ciao Riccardo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. L'altro giorno si è sfogato con grande amore, devo dire, perché l'ho interpretato così, a questi microfoni nei confronti dell'Inter. Lì serve uno che li prende, li appende al muro. Non so se Pioli è l'uomo giusto, tu ti sei candidato e hai due braccia così. Era chiaramente una metafora, ma per far capire sì, che comunque sì, c'era bisogno di una reazione, c'era bisogno comunque di qualcuno. Quel giorno lì mi è venuto in mente Lippi quando disse a Reggio Calabria li prenderà a calci nel culo. E poi venne esonerato ovviamente in tempo reale. In questo caso, nel mio caso, non essendo dentro, quindi non c'era quel pericolo, non ho rischiato niente. Ma detto questo, era una metafora, era il mio senso, era che ci voleva qualcuno che scuotesse i ragazzi, perché comunque che si tornasse ad avere un po' un senso d'appartenenza, un richiamo alle proprie responsabilità, che facessero qualcosa in più rispetto a quello che hanno sempre fatto finora, sì. Perché in quei momenti c'è bisogno veramente di raccogliersi e non di disunirsi. L'impressione era che ognuno pensava al proprio orticello e cercava di scaricare un po' di responsabilità a destra e a manca, quindi questo era il mio concetto, ma credo che Pioli l'abbia fatto. Ricky, come sempre succede quando i giocatori, e tu sei stato giocatore, come sempre succede quando i giocatori sentono aria grama intorno all'allenatore. No? Sì, quello sì, perché vengono tra virgolette distolti da alcune responsabilità, però questo è un atteggiamento non professionale e da giocatori di secondo livello, quindi credo che l'Inter abbia giocatori di primo livello. Sì, lo credo. Quindi, magari non c'è questo senso d'appartenenza, non c'è ancora perlomeno, non c'è ancora questo spirito di gruppo, però nell'arrivo di Pioli si è intravisto qualcosa. Io qualcosa ho visto anche in allenamento, dove lui è molto dentro l'allenamento, molto presente in ogni singola situazione, e questo per i giocatori è molto importante. E poi non dimentichiamo che comunque trasmette attraverso la lingua italiana, che è molto più diretta, molto più veloce. Insomma, tanti piccoli accorgimenti che indubbiamente fanno sì che nell'arrivo di Pioli qualcosa ha portato. Rimangono comunque molti problemi da risolvere, non l'ultimo questa classifica che, nonostante la vittoria di ieri, preoccupa un attimino. Sì, preoccupa, ma secondo me continuo a pensare ci sia tempo e spazio. Riccardo, tra poco arriva Pardo e arriva anche un altro grande dell'Inter come Beppe Bergomi al telefono. Come mi spieghi la storia dei 7 gol subiti in 3 partite? Ma è una squadra a trazione anteriore. Io ho fatto una domanda che credo sia pertinente ieri a Pioli in diretta. Sì, l'ho sentita. Credo che questa sia una squadra che è difficile trovare all'interno di questa squadra delle alternative, delle situazioni che possono renderla equilibrata. A me sembra che questa squadra abbia comunque delle caratteristiche grande trazione anteriore, sì, e che determinati giocatori, a mio avviso, condizionano molto le scelte alternative. Mi spiego meglio. Candreva e Persi sono due giocatori qualitativamente molto, molto quotati, quindi e molto bravi tecnicamente. e quindi credo che se la scelta viene fatta su di loro condiziona poi l'innesto di Banega e João Mario, perché non puoi farli giocare tutte e due. Condiziona comunque un atteggiamento nella fase di non possesso, dove magari Candreva è più portato di Perisic a rendersi disponibile. Perisic lo fa per un tratto della gara, poi viene un po' a scemare. Quindi io credo che ci sia una grande disponibilità, come ha detto Pioli, da parte di tutti di mettersi in gioco e di rendersi disponibili. Però sai, anche a me mi chiedevano, sai, oggi c'è da giocare a sinistra, esterno sinistro basso. Non è il tuo ruolo. Riccardo, c'è da sacrificarsi. Oggi c'è bisogno che tu ti metti lì e fai quello che riesci a fare, però cioè, lo faccio, va bene, per una partita, per due, certo, per tre, però per quello insomma, che non serve. È il mio ruolo. Certo, capisci? Certo, mi rendo disponibile, certo. Però non è nelle mie corde. Quindi l'atteggiamento di alcuni giocatori in questo momento di grande disponibilità non mi fanno ben sperare per una continuità che si ricerca e un equilibrio della squadra. Senti Riccardo, spiegami un'ultima cosa, proprio tecnica, il grande valore di questa squadra, il grande gioiello di questa squadra è quello che ieri sera ha fatto una doppietta, tra l'altro gol bellissimi, ha provocato l'espulsione, si chiama Mauro Riccardi. Come si può mettere Riccardi in condizione di far male agli avversari in maniera continuativa? Intanto diciamo che anche se non è continuativa, però insomma sta facendo veramente male, ogni volta che tocca qualche pallone in area diventa devastante. Il problema di renderlo ancora più incisivo secondo me dipende molto dagli inserimenti dei centrocampisti. Troppo spesso nelle partite precedenti nell'area c'era solo lui e quindi con l'attenzione magari 2-3 giocatori su di lui, quindi difficile da trovare poi lo spazio per cercare di essere incisivo. Quindi il fatto che ci siano pochi centrocampisti con caratteristiche offensive, e mi riferisco a quelli che comunque hanno giocato nelle ultime partite, con Dobbiá, João Mario, lo stesso Banega è uno che gira molto intorno all'area ma non è uno che va a finalizzare l'azione, a chiudere l'azione in mezzo all'area. Quindi se tu lasci centroavanti, come è successo anche nel derby, dove da una parte c'era Bacca e dall'altra c'era Icardi. E non hanno strusciato pallone né uno né l'altro. No, perché non c'era la possibilità da parte di una e dell'altra squadra di andare a chiudere le azioni perché non te lo permettevano. Certo. Quindi certo. Capisci che lasciandolo in balia dei difensori da solo le difficoltà aumentano. È chiaro che se tu hai dei giocatori che si inseriscono, che fanno spazio, che creano dei varchi, che a volte fanno sportellate per cercare di creare confusione, è chiaro che lui diventa devastante, perché è uno che ha scelta di tempo, ha scelta di tempo, ha coraggio. Poi ieri sera abbiamo visto anche quel gol saltando, sdraiando l'uomo, insomma è stata una cosa grande. Quella Riccardo ha dimostrato tecnica, capacità di valutazione dello spazio e freddezza. Questo è la dice lunga su un ragazzo così giovane con così tante qualità. Ricky, ti chiedo un attimo di pazienza perché è arrivato il signor Tiki Taka, che non è Guardiola ma è Pardo. Abbiamo il traffico, torniamo traffico. Tra un secondo, esatto. Così ti faccio fare anche una domanda da Pierluigi. Esatto. Tutti convocati. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Perisic va via in slalom, Perisic ancora lo slalom, Perisic sta da Lusano, no! Icardi mette un punto esclamativo sulla partita, 4-2 per l'Inter. Io credo che in questo momento continuo soprattutto per noi i risultati arrivano attraverso i numeri. Se continuiamo a segnare così tanto e prendiamo qualche gol in più va benissimo così. Non credo che ci sia stato un blackout, credo che nella generosità e nella voglia di andare a cercare il quarto gol ci siamo spaccati in due, ci siamo dimenticati di avere un centrocampo, perché anche tutti i centrocampisti andavano per cercare il gol e quindi abbiamo spaccato in due la squadra. sempre, l'ho detto già dal ritiro, che abbiamo un gruppo straordinario individualmente. Penso che siamo una delle migliori rosse che ci sono in giro, perché abbiamo dei giocatori molto importanti. Poi, però bisogna mettere in campo dopo la squadra, e lavoreremo su questo per tornare a vincere, tornare a essere una squadra. Sai qual è il problema, Pardo, mentre questi erano Pioli e Icardi, che il signor Ferri e il signor Bergomi, sì, che sono entrambi collegati con noi, non fanno parte di quella difesa. Forse si potrebbe convocarli, cosa dici? Beh, sì, potrebbero sicuramente far bene. Ma insomma, ieri c'è stato un passo avanti abbastanza evidente come atteggiamento, e credo che la strada imboccata sia quella buona. Poi i problemi che ha avuto, e anche insomma l'eliminazione della Fiorentina in qualche modo lo raccontano, ci dice che dal punto di vista dell'equilibrio e della tenuta nei 90 minuti la squadra mi sembra un po' in difficoltà. È questo il punto, non so chi vuole rispondere. Ferri, che la, poi la tenuta nei 90 minuti è, e poi più che fisica, io credo proprio mentale di... Entrambi rispondono, Riccardo Ferri che poi salutiamo, e Beppe Bergomi. Ricky. Beh, intanto ciao Pierluigi, ciao Beppe. Benvenuto. Ciao, no, ciao. No, io credo sì, la tenuta fisica, ma può essere anche identificabile nel fatto che comunque, come ha detto ieri Pioli, la squadra poi si è spaccata in due, si è allungata, quindi non c'erano più i tempi, andavano a far pressi in maniera disordinata. Quindi è chiaro che lì sprechi un sacco di energie, quindi oltre ad essere brutto da vedere, sprechi poi anche più energie rispetto a un primo tempo dove, giocando alta, giocando con la difesa alta, c'erano meno spazi da occupare e meno spazi da aggredire. Quindi credo che un po' la verità stia un po' nel mezzo. Grazie Ricky. Grazie Riccardo. A voi, buona giornata. Ciao, passiamo la palla allo zio Bergomi. La pensi come Ferri? Ma guarda, io sono contento di veder giocare l'Inter in questa maniera. Che poi perda degli equilibri, che la squadra si allunga, va bene. Però ricordiamoci quello che avevamo visto prima di Pioli e quello che stiamo vedendo. La squadra gioca, aggredisce in avanti, è costruita per andare a pressare in avanti, non scappare indietro. E poi è vero che perde equilibrio nel secondo tempo, abbiamo visto le difficoltà di questa squadra, però fa un calcio offensivo molto bello, con i tempi giusti, con Candreva che taglia, con Banega che viene dentro, i movimenti di Cardi che non è più solo spalle alla porta, ma il gol del suo primo gol è stato un gol veramente un capolavoro di questo ragazzo. E allora io dico va bene, poi pian piano questa squadra troverà anche determinati equilibri, ma la vedremo ancora soffrire, andare in difficoltà e magari anche farsi rimontare. Però è una squadra che gioca a calcio. Sì, giocare a calcio però vuol dire anche prendere un po' meno gol di quelli che sta prendendo, perché sì, c'è qualche difetto strutturale c'è. Pioli è da poco che lavora, e sicuramente la prima parte della stagione, insomma, al netto della simpatia umana e del fatto che secondo me non è stato difeso come doveva essere difeso dalla società De Boer, però è chiaro che c'è stata molta approssimazione, no? Dal punto di vista dell'organizzazione, quindi questa è una realtà. Secondo me l'hanno difeso fin troppo. Okay. Io non voglio essere cattivo, no, ti spiego, non tendenzialmente sono un buono. No, allora non dovevano prenderlo, però. No, perché sono andato a vedere anche degli allenamenti, non aveva in mano la squadra, ma già da tanto tempo. E quindi questo cambio secondo me andava fatto prima, perché tu vedi che adesso la squadra gioca bene. Prima crossava, ma crossava e dentro l'area di rigore c'era solamente un giocatore. Adesso tu vedi che Candreva viene tra le linee, che Perisic viene dentro il campo, tanti giocatori intorno alla palla, c'è un'idea, proponi calcio, vedi giocare l'Inter, ti entusiasmi. Io ieri ero a San Siro a commentare, vedevo la gente, sì, che poi si è spaventata nel secondo tempo effettivamente, perché quasi si fa rimontare, ma nel primo tempo abbiamo visto per 20 minuti una bella squadra. Ecco, questo che secondo me anche l'Inter vuol vedere. Poi io, essendo stato un difensore, Riccardo appena andato via, anche lui, certo che magari vogliamo avere un equilibrio, non vogliamo essere sottoposti, certo, insomma, certo, a determinate ripartenze. Il difensore vuole essere più attento, compatto, protetto, non avere tanto campo alle spalle, però insomma mi piace anche vedere una squadra propositiva. Senti Beppe, cosa mi dici invece della Fiorentina? Perché grandi polemiche mi stanno già arrivando per iscritto, 349-238-6666, a proposito di D'Amato. Ma al di là di questo, oppure compreso questo, come hai visto la Viola? Carlo, allora, la Viola si è presentata a San Siro con la miglior difesa. È vero che doveva giocare ancora due partite, cioè quella con l'Inter e quella con il Genoa, ma aveva subito poco. I primi 20 minuti è stata molto disattenta e quindi è andata sotto. Ma è una squadra ieri ha visto una bella partita, perché quando tu hai davanti Bernardeschi, hai Ilicic che fa una partita del genere, Kalinic che è un giocatore che a me piace tantissimo, Borca Valero insieme a Balden nei due di centrocampo, capisci che è destinata a giocare un ottimo calcio questa squadra, infatti quasi riesce a recuperare. Ieri gli ha detto male, perché se gli dà rigore e l'espulsione secondo me è eccessiva, possiamo vedere un'altra partita ancora, ancora più bella. Però la Fiorentina è una squadra che gioca a calcio ed è tornata ad essere la squadra che mi aveva entusiasmato nella prima parte dell'anno scorso, nonostante la sconfitta. Anche se io continuo a pensare che ci sia una sorta di rottura, di rottura non scritta e non detta tra l'allenatore e la proprietà. L'altro giorno, forzando un po' le cose, Pierluigi, dicevo, anche con le dichiarazioni su Bernardeschi, l'impressione che Paolo Sosa stia facendo di tutto per farsi allontanare, questa rimane la mia impressione. Sì, però ieri vale il discorso, essendo un grande allenatore, vale il discorso Falozio. Sicuramente la Viola è un'altra squadra imperfetta, è un'altra squadra fragile, ma che prova a giocare a pallone, l'ha dimostrato anche ieri. Ieri l'arbitro ha pesato. Ecco, questo lo dico perché non perché nessuno può dire come sarebbe andato a finire, però è un elemento che secondo me nel valutare la partita della Fiorentina non si può sottacere, perché insomma altrimenti secondo me si rischia di essere intellettualmente non onesti. Quindi questo è un tema della partita di ieri, è stato uno di quei casi in cui l'arbitraggio pesa. Poi si può discutere per tutto l'anno, per tutta la vita, su se c'è la compensazione, se anche solo statisticamente le situazioni si riequilibrano. Ieri sulla partita della Fiorentina pesa. Detto questo, squadra con grossi, con belle potenzialità e bei limiti, no? Non so come dirti, con delle aree di forza molto precise e delle aree di debolezza ancora molto precise. Sì. Sul feeling penso che sia una partita ancora che possa regalare sorprese. Cosa ne pensi, Beppe, per chiudere? No, è vero, perché viviamo in questo nostro mondo, no? Che è un po' particolare, che tante volte dire determinate verità o fare determinate dichiarazioni è controproducente. E poi vivendo anche questo ambiente fiorentino che è sempre molto fumantino, non è mai facile. Sicuramente bisogna pensare al bene del ragazzo. Il bene del ragazzo qual è? Che finalmente non fa tutta la fascia, che gioca nei due trequartisti dietro la prima punta, che tira fuori le sue caratteristiche ed è tornato ad essere determinante come era inizio dell'anno scorso, perché poi aveva avuto un'involuzione. Sì. Più sta vicino alla porta, perché noi dobbiamo, ed è quello che sta facendo in questo campionato, il nostro campionato sta mettendo in mostra, tirare fuori i talenti italiani giovani che ne abbiamo, lo vediamo con l'Atalanta, con la Fiorentina, con il Milan, con tante squadre. Quindi sembra con il uno dei temi conduttori io, della stagione. Io la sensazione, ero abbastanza negativo sulla Fiorentina, no? Cioè, non c'era gran entusiasmo, campagna acquisti così. Io invece ho la sensazione che se si riesce a trovare una sorta di terreno comune, non voglio dire di tregua, nel rapporto, insomma, se si riesce a ristabilire un minimo sindacale, secondo me, di serenità, questa squadra abbia dei margini di crescita. Sì, perché mi sembra d'accordo. Problema che delle cose stiano lievitando, non so se è la stessa reazione, no? Cioè che possa fare come faceva gli anni scorsi, ecco, almeno come faceva gli anni scorsi. Sì, c'è anche un'altra squadra che deve trovare un minimo di serenità. Io, seguendo Bergomi ogni volta che posso, so che è abbastanza critico nei confronti di Sarri, anche ieri un 1-1 che certo non può soddisfare. Ma io, allora, è la squadra che mi piace più di tutti commentare, perché gioca un calcio che a me piace molto, ma in questo momento è un calcio, come ha detto Sarri, noi giocare meglio di così è difficile, ma non è produttivo. Tu capisci che adesso il Napoli, per creare occasioni da gol, per andare a vincere le partite, fa una fatica tremenda, e quindi non deve mai sbagliare dietro. Cioè, se appena concede un'occasione e gli altri fanno gol, per il Napoli diventa veramente difficile. E questo un po' mi dispiace, perché quando una squadra gioca bene a calcio, secondo me deve essere premiata per l'amore del lavoro e per la bellezza del gioco. In questo momento il Napoli non gli gira tutto bene. Però io dico pure una cosa, Sarri è bravissimo e sicuramente se avesse un attaccante qualsiasi, scegliete voi, un centravanti dei 5-6 attaccanti, da Immobile a Icardi a Dzeko, che non volevano più vedere neanche in cartellone, se avesse uno solo di questi attaccanti, diciamo da fascia alta, adesso il Napoli avrebbe 6-7 punti in più, secondo me, senza dubbio. Detto questo, però, è grave che non si sia pensato a un piano B. sia dal punto di vista diciamo della società, cioè non c'è una riserva, non c'è realmente una riserva di Milik, né dal punto di vista del gioco, perché tu puoi decidere di non avere una riserva nelle caratteristiche di Milik se hai un'alternativa di gioco molto precisa. Certo, questa alternativa di gioco Sarri non l'ha costruita. Ti dico la verità, sono un po' deluso, poi rimane il giudizio strapositivo di un allenatore che l'anno scorso ha fatto benissimo e ieri è stato anche sfigato, perché ieri il Napoli meritava di vincere la partita, insomma è stata sicuramente meglio di Napoli Dinamo Kiev, ci vuole poco, però che non ci sia una serie di veramente una serie di opzioni alternative di piano B, questo è assurdo, e secondo me anche la gestione di Gabbiadini, che per carità ci ha messo del suo, non è stata brillantissima, perché Gabbiadini in questo momento lo dovevi coccolare e sostenere come fosse invece tuo figlio, invece, perché invece, ti serve. Invece è successo e il invece contrario, vabbè, ma perché capita che non si prendano più con l'allenatore. Beppe, grazie. Un abbraccio a tutti, grazie. Ciao, ciao, grazie, ciao. Zio. Grazie Beppe Bergomi, ci fermiamo per la borsa, poi aspetto anche voi. 800 24 0024, il numero verde. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia, il coso rosso, grazie. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Dunque, Simone Fabio Giannina, Pierluigi Pardo oggi qui con me. Ma, Giorgio De Luca con noi. Dato come che va? Non siamo qui a pettinare le bambole, e il venerdì abbiamo uno degli appuntamenti clou della settimana, sì, che è la schedina di Pardo. Facciamo un bilancio, perché è stato un weekend difficile sia per Pierluigi che per il nostro Giovanni Capuano, che salutiamo. Carissimo Giovanni Capuano. Carissimo Giovanni Capuano. Allora, Pierluigi ha fatto solo 5, credo solo. Sia peggiore, certo, rispetto ai miei standard è poco. Peggiore, performance stagionale, Pierluigi, sì, mi sa. Sì. Aveva osato con un 2 della Fiorentina a Milano, 2 dell'Udinese a Cagliari, con il 2 dell'Udinese a Cagliari, con il 2 della Juve a Genoa, con il 2 del Samp a Crotone. Beh, quello ci poteva stare. Quindi è andato maluccio. Invece il nostro Giovanni, però beccato Napoli Sassuolo X, ha fatto solo 5 anche lui. Sì, con dei pronostici però più banali, diciamo la verità. Ho capito, vabbè, però voglio difendere Capuano. Non mi può rispondere, quindi però voglio dire, ha fatto dei pronostici. Io ho dato degli spunti per gli scommettitori. C'è qualcuno che ha puntato sul pareggio fra Napoli e Sassuolo. De Luca, come va? Scommettitori di tutta Italia. De Luca, dici, se tu fossi De Laurentiis, che faresti? Ma io, massima serenità. Massima serenità, bisogna arrivare a Natale. Da passare. Sai come è finito quello di Stai Sereno, no? Sì, lo so. Quindi, bisogna arrivare a Natale, mangiare il capitone. Poi alle 3:15 scopriremo perché il Napoli non corre come. Sì. E questo è, scusate, ma ecco, però il tema è più interessante. Voi a Natale mangiate veramente il capitone? Mangiamo il capitone, è molto grasso, molto quindi grasso, non te lo consiglio. Ma che fa? Ma che è? L'insulto, no, è una cosa, libero? No. Ma che roba è? Il capitone, ma mica solo quelli, frutti di mare, la minestra. La minestra come? Minestra. Pasta, patate e provola. No, la minestra tipo zuppa di verdure, pesce, una roba verdure, povera, hai capito? Roba povera. Okay. Ma si mangia tanto. Poi perché c'è la pasta, patate e provola, quando si mangia? Beh, si può mangiare il 25. Anche il 26. Ma anche il 26. Ma pure il 27 che ci Ma penso. Sì, ma quando vuoi. Tanto se mangiamo sempre. Il 28. Intanto in quelle feste mangiamo sempre. Oh, De Luca, sei veramente appuntamento con tutti gli scommettitori ogni venerdì alle 14:50 la schedina di Pardo. Ecco, la schedina salutiamo di Pardo. De Luca. Speriamo che vada meglio. Napoletano di Locarno, napoletano svizzero. Simone, buongiorno. Sì, pronto? Pronto? Sì, eccomi. Dica. Io volevo rifarmi a quello che ha detto lo zio Beppe Bergomi. Sono d'accordo sul fatto che De Boer sia stato supportato e sopportato fin troppo a Milano, nel senso che finalmente l'Inter forse ha un vero allenatore, anche rispetto a Mancini, nel senso che secondo me la mossa di ieri di mettere D'Ambrosio su Fisto, su Bernardeschi o su Ilicic del primo tempo è stata secondo me una gestione tattica enorme che nell'Inter non si vedeva da epoche incredibili, o come il fatto di Candreva lasciargli libero spazio alla sua fantasia di fare anche il trequartista. invece con De Boer abbiamo visto sempre posizioni molto molto bloccate, come si è visto anche con Mancini in passato. Poi Candreva la sta mettendo con discreta regolarità. Simone, io la fermo e la ringrazio, perché abbiamo in linea, abbiamo rubato al soundcheck del concerto che terrà stasera a Kiev, sì, un tuo amico Pupo, nostro amico, che fra l'altro per chi non lo sapesse, lui fa un po' il modesto, ma insomma è una celebrità mondiale, e in quei paesi lì succede una cosa, cioè lui non si esibisce in un teatro, lui si esibisce nello stadio Lobanovsky, 75.000 spettatori, è vero. Ciao ragazzi, no, ciao. In questo momento sono in camerino che stavo facendo le prove cantate con la mia corista, che una, io non prendo tra i brutte coriste, devono cantare bene. Ci fai sentire un pezzettino in che consiste la prova? Facci un sentito. Stavo facendo questo, aspetta un attimo, aspetta, ti metto un bivamoce. Vai, fate la prova insieme. Sì, sì. Vai. Ecco. Ma dalla gente imparato tutto ciò che ho detto, grazie agli italiani spazi per il mondo, per avermi dato tanto sentimento, un sorriso in più. Ecco, praticamente è ciò che avete sentito. No, no, bene. Benissimo. E lì ci sono gli ucraini, sanno l'italiano, sanno l'italiano grazie alle due canzoni, questo è un dato di fatto, no? Alcuni è vero, no? Ieri partendo dall'Italia, perché io so, oggi è la prima data che è Kiev, poi gireremo per 8 giorni tutti i teatri più importanti delle città ucraine, e una ragazza mi ha fermato e mi ha detto, non so se questo per lei è una cosa bella oppure un handicap, cioè, ho imparato l'italiano ascoltando Gelato al cioccolato, quindi ragazzi, fate voi, capito? Mi sembra buono. Un po' anche Pardo e De Luca hanno imparato l'italiano ascoltando, dato che sono giovani, non per altro. Ecco qua, ecco che parte. Ecco, vai, ci siamo tutti insieme. Momento karaoke. Eccola. Vai. Pure la corista, tutti insieme. Ci sei? Vai. Davide, vai. Ritornello partiamo, eh? Ritornello, sì, tutti insieme, tutti uniti, eh? Pronti? Nonostante la sconfitta del Trentino, lo cantiamo, vai. Gelato, cioccolato, dolce, un po' salato. Gelato, cioccolato. C'è un po' di ritardo, ma deve essere il fuso, che arriva un secondo dopo, credo, per però credo sia, ritardo, credo sia normale. Senti, vabbè, Inter Fiorentina non l'hai vista, no? No, l'ho seguita appunto in diretta via social, tutto quanto, davvero una partita. Però a un certo punto mi sembra che l'Inter ha anche rischiato di tutte abbastanza, le due, sì. Ci sono anche delle recriminazioni arbitrali. Aspetta, che c'è qui l'arbitro Cesei. Caro Pupo, devo dirti che la Fiorentina è stata chiaramente danneggiata. Grazie Cesare. No, veramente. No, Dio, l'ho sentito dire, ma la Fiorentina è stato meglio strano, Sosa che fa queste dichiarazioni. Bernardeschi, Firenze, tutti un po' arrabbiati con lui, per dire. Ma tu lo terresti o no? Perché la mia sensazione già espressa è che stia facendo di tutto per farsi dare la buona uscita. Ho capito, te mi devi dire se c'è un calciatore che quando ha dimostrato di essere forte è rimasto a Firenze, ma non trovi, tranne Antonioni, capito? Sì. Ne uno che è rimasto lì, capito? Qui abbiamo una lista infinita. Antonioni infatti è ancora là, capito? Ancora là. Assolutamente, no, questo è vero, e devo dire anche molto ironico, autoironico, e anche molto onesto, nel senso che questa è una consapevolezza che secondo me purtroppo i tifosi della Fiorentina cominciano ad avere, no? Di essere un luogo, fra l'altro, di grande cultura calcistica. Firenze è realmente la città di Coverciano, è la città dei commissari tecnici, degli allenatori, a Toscana ha una tradizione pazzesca, però è ovvio che poi quel tipo di salto che fa sì che diventi veramente il punto d'arrivo dei top player mondiali, questo non c'è. Bocca al lupo! Per Luigi, di grande cultura, non solo calcistica, ma il senso lato. Grazie ragazzi! Grazie, in bocca al lupo! Ero l'altra mattina, c'era la maratona, ma non l'ho fatta. Bocca al lupo per questa sera e per le date a venire. Come si dice? Yakuya? Fa più spettatori di Napoli, di Dinamo Kiev. Tutta la vita, ma veramente, a parte tutto, ma... Io ho avuto modo di vedere immagini, filmati e passare delle serate con dei resoconti, insomma, è Dio, pazzesco, Dio. Pazzesco. Cioè, sì, esatto, sì, esatto, sì, una roba simile. Allora, traffico poi, Fabio. Tutti convocati. I love this game. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Tutti convocati. Stavo sbirciando i messaggi WhatsApp. Se vogliono Allegri lo carico in macchina e glielo porto a Firenze prima che se ne accorgano e porto a Vinovo Paolo Sousa. Questo è il sogno di buona parte dei tifosi bianconeri. Non lo farei mai, non perché non sia bravo Paolo Sousa, ma perché è bravissimo Allegri. Perché dai, è bravissimo Allegri, e quando hai un allenatore che dimostra di vincere prima di, insomma, cioè, prima di portarlo in macchina. Paolo Sousa ha delle idee di calcio interessanti, ci mancherebbe altro, e magari, gli capiterà di, si vede che hanno bisogno delle loro bandiere. Cosa vuoi che ti dica? Le vedove di Conte. Gianni Balzarini, buongiorno. Buongiorno. Adesso buongiorno, parliamo di Juventus. Tu lo faresti lo scambio Allegri Paolo Sousa? Così, mai prima domanda facile. Io, guarda, no, più che dirti se io farei questo scambio, io non mi stupirei se avvenisse questa cosa l'anno prossimo. La butto lì. Attenzione, bombone eccezionale, subito. Bomba di Balzarini. De Luca, che l'ha detto. De Luca, rivendica questa cosa, vieni dentro, non so, senza paura. Non so se scambio. Io dico che non mi stupirei se alla fine di questa stagione Allegri dovesse lasciare la Juventus e dovesse arrivare Paolo Sousa. Ecco, la versione, in prosa di questa bomba di mercato che ci stai dando è che qualora Allegri dovesse non rientrare più nei piani, Paolo Sousa, questo piace molto? Paolo Sousa piace molto, per il suo background c'è una simpatia particolare con la dirigenza, piace Paolo Sousa. Adesso si usa dire, si parla di profili, no? Non di frontali, ma di profili. Bell'uomo, Juventus, ex Juventus, conosce l'ambiente, ne conosce la mentalità. Secondo me, se dovessi spendere un nome per un futuro allenatore della Juventus, qualora l'anno prossimo non ci fosse più Allegri, io direi Paolo Sousa. Ecco. Ma io ho sentito parlare anche di una cena con Marotta. Però. Allora, io adesso di questa cena non sapevo nulla. Non c'eri anche tu. Tra l'altro, trattandosi di una cena, rosico di non essere stato invitato, perché io ma non per tanto, non avrei sentito nulla, mi sarei limitato a mangiare. No, però invece che succede? Nel senso, adesso il livello di emergenza sta salendo su, insomma, un po' a livello di guardia. La sensazione, anche leggendo i giornali, è che sia un momento importante, quasi come quello post Reggio Emilia, ragazzi. Premettendo che a Reggio Emilia erano 14 punti di distacco dalla prima in classifica, parliamo dell'emergenza che in parte dovrebbe essere compensata positivamente perché rientra Chiellini sabato, lo ha detto lui personalmente ieri anche ai nostri microfoni, e quindi sabato la Juventus ritrova Giorgio Chiellini al primo minuto. È una settimana importante per Paolo Dybala, perché Allegri lo aveva detto 7 giorni fa, la settimana prossima sarà decisiva per Dybala, quindi per il possibile rientro, o comunque per averlo a disposizione nella partita contro l'Atalanta, perché poi dopo, sai, si ritrova eventualmente con 3 attaccanti, e sono quei problemi abbondanti che tutti gli allenatori ti dicono di voler avere, però di questi 3 uno lo devi lasciare fuori. E allora vedremo poi Allegri come si comporterà. Sai, adesso hai Higuain e non lo puoi lasciare fuori. Mandzukic, che comunque al di là di Genova, dove tutta la squadra ha fatto male, è sicuramente molto in forma. Però, Gianni, però delle gerarchie ci sono, e la coppia dei sogni non può che essere quella argentina, e questo lo sappiamo bene. Anche perché mi permetto di sottolineare che il rientro di Dybala comporterebbe che Higuain si riprenda quel ruolo di prima punta bravo, che ha lasciato in questo periodo. Vi do un dato statistico, perché a volte i numeri sembrano freddi ma poi alla fine scaldano le discussioni. Sui 7 gol che ha segnato Higuain quest'anno in campionato, 6 li ha segnati in presenza di Dybala, uno solo senza Dybala, quello contro il Napoli. Nato anche piuttosto casualmente, nato anche piuttosto casualmente. No? E questo, se mi permetti, usando la parola, non è un caso, perché perché Higuain comunque, secondo me, un applauso, cioè si è messo a fare il valletto di Mandzukic, come prima diceva, va bene, ho capito, gliel'ha chiesto Allegri, però lui ha detto di sì e lo ha fatto, come Ferri prima diceva. Forse perché Allegri è un po' di leadership. Forse ha un po' di leadership. Ma va, veramente? Tu dici? No, vabbè. Un pochino sì, direi. Sì, un pochino di leadership. Non è così sfigato, dai, un po' di leadership ce l'ha. Sfigato no. Grazie Gianni. Ciao. Ovviamente si scherza, però cioè, io poi alla fine divento anche ancora più allegriano quando sento tutte le critiche, perché insomma, mi sembra, vabbè, cioè, fatto tu prendi superstar Higuain e gli dici adesso tu balli intorno a Mandzukic, e Higuain l'ha fatto, come prima diceva Riccardo Ferri. Se mi chiedevano di fare il terzino sinistro, guarda, devi sacrificarti, ok, 1, 2, 3 partite. Allegri ci sa fare, e la leadership di un allenatore oggi è un elemento sempre più importante, soprattutto per le grandi squadre. Ma certo, perché per le grandi squadre, perché le grandi squadre hanno grandi giocatori, sono abituate. Oggi è cambiato tutto, non è più un'epoca nella quale l'autorità, come poteva essere 30 anni fa, l'autorità di un allenatore valeva a prescindere. Tu eri un ragazzo di 18 anni, timorato di Dio, senza grandi procuratori, senza le veline, senza le macchine, guadagnavi, eri contento di guadagnare, ma guadagnavi, diciamo, il giusto, guadagnavi bene, ma guadagnavi il giusto, per così dire. E non c'erano 1000 procuratori, non c'erano 1000 situazioni di mercato che si aprivano, andavi lì e non c'erano neanche 1000 Lamborghini come aveva quello, esatto, e quello, e quello è, era il tuo punto di riferimento, no? Come fosse il professore al liceo. Oggi è diverso, oggi l'allenatore, il calciatore se lo deve portare a sé, lo deve conquistare, lo deve spingere soprattutto a grandi livelli a dare il massimo per lui, anche e perché quindi sappiamo come se un allenatore sport... è figo, se un allenatore ci sa fare, se un allenatore comunica un'immagine vincente, se è bravo nella comunicazione con le televisioni e con i giornali, questo aiuta, no, ragazzi. Ma poi parliamoci chiaro, nello sport lo status è dato anche dal grano, ci sono giocatori che guadagnano molto di più degli allenatori. Assolutamente. E questo è un fatto da non sottovalutare. Fabio, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie per la convocazione. Vorrei tornare sull'Inter, perché ieri ero a San Siro e forse abbiamo visto davvero un cambiamento, perché ho visto salire il livello delle prestazioni di qualche giocatore sempre molto criticato, tipo D'Ambrosio, che ieri secondo me è stato tra i migliori in campo, e anche con Ndombele, che fino a quando non è stato ammonito ha garantito l'equilibrio che poi è mancato con l'ingresso di João Mario, secondo me, nel senso che anche con i limiti, comunque il peso un po' difensivo ce l'ha dato lui. Voto e all'arbitro, poi, per essere onesti. Allora, dallo stadio sinceramente il rigore su Rodriguez sembrava da vedere, almeno noi non ci siamo accorti quasi nessuno. L'espulsione anche rivista, ma forse si poteva anche dare, nel senso, poi immagino che a Firenze non siano contenti, ma per una volta ce lo prendiamo. E quello sul calcio di rigore è di una gravità inaudita, perché è evidente che la gamba del difendente si porta chiaramente sulla gamba del giocatore della Fiorentina, e mi meraviglio di un arbitro internazionale come D'Amato. Grazie Fabio, ci sentiamo subito dopo il GR. Ah, tra l'altro, allora, verrà Beninazzo a chiederci tutta questa storia, closing, mica closing, adesso si fa, il Milan è già venduto, oppure me lo tengo io. Cioè, questa cosa. E poi, sai che abbiamo come ospite? Abbiamo intercettato l'ex preparatore atletico del Napoli, perché questo mi sembra un punto importante. Colui che è stato, Corrado Saccone, 7 anni preparatore atletico del Napoli, con Mazzarri, con Benitez, e tutti ci sorprendevamo del fatto che Napoli non avesse mai problemi, infortuni, esatto, che corressero come le iene. Adesso non sembra più così. A dopo. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy. Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. E come hai visto, Pierluigi Pardo reduce da una mitica serata con te. Da senti che arrivava la tosse. Napoletano. Si alzò per aprire le imposte. La luce del buio là fuori sembrava evaporare. Benignazzo, come va? Benissimo. Bene, molto bene. Sei bene, pronto per l'arrivo, di Calcutta in radio? Come ti collochi nella scena indie romana? Mi piace molto la scena indie romana. Io seguo di più quella napoletana. Beh, quale potrei citare diversi... Ad esempio? C'è il mio amico Francesco Di Bella, ex 24 sì. Grana, che ha appena pubblicato il suo nuovo album, e che per me insomma è il vero erede di Pino Daniele. Siamo addirittura, al top, siamo al top. Addirittura. Sì, senti, sì. Le luci della centrale elettrica ti piacciono? Anche le luci della centrale elettrica, ma sono, davvero? Sono da... No, non è vero. Sono da Ruggeri o a tutti i convocati? No, sono... Mi sono incontrato la cagnola in ascensore e mi ha detto... No, noi siamo... Io conosco i due giornalisti. Sì, Tommaso, così. Domenica sera, vi saluta tutti. Siamo... Chiamiamolo Tommaso prima del derby, eh? Ah, c'era bene. Facciamo il derby della musica indie, eh? Bisogna trovare un romanista. Siamo però. Al Falco. Perché Calcutta non dichiara. Niccolò Contessa è troppo un genio per occuparsi di queste cose. È troppo a livello alto. Cioè qui non... per occuparsi di queste cose. Per occuparsi di una partita di calcio. Terreni. Ormai Marco Bellinazzo, soprannominato Mr. Closing, lo sai, no? Yeah, Mr. Closing. Mr. Closing. Here we go, Mr. Closing, Marco Bellinazzo. Allora, sentiamo questa cosa di questo blob di Berlusconi. La situazione closing è fissata per il 13 di dicembre, crediamo che non ci siano ostacoli ad ottenere le autorizzazioni che si devono ottenere dallo Stato cinese. È fatta, ci sarà il closing il 13 dicembre, mi ha domandato un signore del pubblico, ma cosa succede se il closing non ci sarà? Dovrò riprendermi il Milan. Se non arrivassero in tempo, io credo che potremmo spostare il closing di un tempo però limitato, un mese e mezzo, non di più. È già venduto, il closing è fissato per il 13 di dicembre e se per caso queste autorizzazioni non fossero arrivate non avremmo nulla in contrario a rinviare il closing. Benissimo. Di un mese o un mese e mezzo. Allora, Mr. Closing, facciamo un riassunto delle puntate precedenti. Vorrei rigettare questa denominazione che devo dire è più un incubo il closing. Siamo all'ennesimo colpo di scena annunciato, in qualche modo. La situazione credo che sia abbastanza chiara per quanto confusa. È chiara e confusa al tempo stesso. Vabbè, chiara e confusa, c'è una contraddizione in termini. Sì, ma mi sembra che qui tutto sia contraddittorio, insomma, di lineare ci sia poco. Contraddittorio. Allora, no, la situazione è che effettivamente c'è stato questo ritardo nell'arrivo delle autorizzazioni. Io sono abbastanza sicuro, insomma, che oltre al ritardo nelle autorizzazioni c'è stato ovviamente anche un ritardo nel reperimento dei fondi, nel mettere insieme la squadra degli investitori. Alla fine mi sono giunte insomma garanzie sul fatto che questi soldi prima o poi arriveranno. Molto probabilmente non si riuscirà a chiudere per il 13 novembre. Dicembre, anche Berlusconi prima aveva avuto questo lapsus, era 13 novembre del 2017. Esatto. E il problema adesso qual è? Che Fininvest è disposta ad accettare la richiesta di proroga di Sino-Europe, che non è ancora arrivata ufficialmente. Il nodo è l'extra caparra, cioè la Fininvest vorrebbe altri 100 milioni sui propri conti e non su conti di banche terze. I cinesi sono disposti a versare un'ulteriore caparra di entità inferiore ai 100 milioni. Il fatto che ci sia questo balletto in questo momento, cosa può significare? Che i cinesi non hanno ancora tutti i soldi, oppure che semplicemente c'è un ritardo burocratico? Evidentemente ci fa pensare più alla prima ipotesi che alla seconda. In tutto questo Berlusconi, che come abbiamo sempre detto non avrebbe mai voluto vendere il Milan, gongola all'idea di tenersi questi 100-150 milioni eventualmente arrivassero, certo, fare il mercato a gennaio e continuare a guidare il Milan. con tanti saluti ai signori cinesi, eccetera. La prospettiva però più concreta, e chiudo, è che effettivamente poi questi soldi arriveranno, perché veramente, insomma, mi sembrerebbe un suicidio perdere 100-150 milioni. Il problema vero è capire quale sarà questo consorzio, chi saranno i soci, perché come abbiamo sempre detto, dall'identità e dalla consistenza patrimoniale di due o tre dei soci capiremo diverse cose, capiremo quello che sarà il futuro del Milan. Cose. Senti, parliamo un attimo di Napoli, anzi tra un po' ne parliamo anche sul fronte proprio calcistico. A questo punto la Champions League diventa non un miraggio, però un obiettivo molto lontano. Cosa sta frullando nella testa di De Laurentiis, bilancio compreso? Beh, sai, si sta per chiudere, cioè 2016 vedrà un altro rosso, pochi milioni, il secondo consecutivo, nulla di preoccupante, chiaramente visto il bonus che Napoli aveva messo in cascina con 8 bilanci inutili consecutivi. Però è chiaro che non fare la Champions, questo, tra l'altro questo dubbio che si è aperto sulla riforma della Champions in vigore fra due anni, perché il fatto che, diciamo, ci fosse questa prospettiva di poter qualificare quattro squadre direttamente a gironi in qualche modo rasserenava anche il Napoli e altre squadre italiane. C'è questo ricorso dell'Associazione delle Leghe Europee, vedremo se la UEFA avrà il coraggio di portarla fino in fondo, questa riforma. Io e Pardo votiamo a favore, vero Pierluigi? Beh, io voto francamente per una roba che tuteli le grandi federazioni e le grandi squadre. Insomma, cioè, o uno decide che fa la Coppa dei Campioni come era una volta e non si può, se no, tornare indietro, anacronistico. Oppure francamente quello che ti può dare in Champions League il Ludogorets, onestamente, che in questa, no? questo è evidente, non c'è, ma guarda, sarebbe bastato semplicemente non dividere il percorso Champions no Champions, cioè quando tu arrivi ad avere quelle ultime 10 squadre che si devono qualificare, sappiamo che sono divise le 10 dei paesi migliori non campioni e le 10 dei campioni. Basterebbe semplicemente quelle 20 squadre farle giocare serenamente una contro le altre. A quel punto magari l'italiano di turno il preliminare se lo deve pure sudare, però se lo suda contro il Bruges, contro il Ludogorets, non contro una spagnola o una tedesca. Allora, abbiamo in linea un ospite, Marco Bellinazzo, da tifoso napoletano. Come vedi fisicamente il Napoli ieri sera di nuovo 1-1 contro il Sassuolo? Beh, a parte i problemi proprio tattici legati alla mancata del centravanti, mi sembra che non ci sia quell'aggressività, quella forza fisica, l'esplosività che c'era negli ultimi anni, insomma, in particolare l'anno scorso è stata la vera chiave di volta quel tipo di gioco, era il gioco di Sarri. Effettivamente nelle ultime settimane, insomma, si vede una squadra come si era vista forse in un piccolo passaggio l'anno scorso tra gennaio e febbraio, purtroppo decisivo. Però questo sta durando da troppo, insomma, questo appannamento. Allora, per 7 anni è stato preparatore atletico del Napoli Corrado Saccone, che ha lavorato con Mazzarri, con Benitez e anche nel primo anno di Sarri, cioè l'anno passato. A me ha sempre sorpreso la continuità fisica del Napoli e l'assenza di infortuni. Ha deciso di cambiare in estate, Sarri ha deciso di cambiare il suo staff e oggi Corrado Saccone, che appunto è in linea con noi, lavora in Albania nel Partizan Tirana. Buongiorno a voi. Buongiorno, come va? Bene, bene, grazie. Stiamo lavorando, il tempo è buono, la squadra va bene, siamo a 3 punti dalla prima, quindi tutto come quindi più vicini del Napoli, diciamo. Noi siamo 8 punti dalla prima. 8 punti dalla prima. Ma vabbè, ma sicuramente il Napoli è una grande società e sopravvivere da questo momento non proprio positivo. Un po' è stata penalizzata da vari infortuni, però poi alla fine io credo che il Napoli è un'ottima squadra e soprattutto è una grandissima società, quindi sicuramente è un momento che passerà. Sì, al di là dell'affetto, però mi sembra un Napoli, a tutti noi, a me, a Parda, a Beninazzo, sembra un Napoli che non abbia l'aggressività che aveva negli anni passati. Io posso parlare della mia esperienza, di quello che magari erano le mie proposte, le mie esercitazioni, la mia integrazione al lavoro dei vari tecnici. Ovviamente non vedendo gli allenamenti nuovi, non vedendo il nuovo modo di lavorare, credo che sia un modo nuovo di lavorare. Beh, le partite però le avrà viste. Sì, le partite le vedo sempre perché ho avuto grandissimo affetto verso questa società. Sì, effettivamente l'impressione è che la squadra non sia in condizione ottima, ma probabilmente è dovuto un po' alla mancanza dei titolarissimi, degli infortunati che hanno un po' penalizzato. Poi io ripeto, cambiare, magari io conoscevo l'ambiente molto bene, quindi cercavo di proporre allenamenti per esaltare le caratteristiche dei singoli, personalizzavo alcuni allenamenti anche post allenamento squadra con alcuni giocatori, cercavo di prestare la massima attenzione alle esigenze dei singoli, però poi facendo lavorare in armonia, perché io credo che l'armonia, l'allegria sia una componente importante. Adesso non so che tipo di lavoro stanno proponendo i tecnici. Certo c'è uno staff di valore, staff che credo che sia da Napoli, ripeto, non li conosco, non conosco perché sono un po' più vecchio di loro, però non so dire, molte volte... Il segreto dell'anno scorso, se c'è stato un segreto, qual era? Ma non è l'anno scorso, diciamo che sono stati 7 anni meravigliosi, dove al massimo siamo arrivati al 6° posto il primo anno, quando Mazzarri è subentrato a Donadoni, poi abbiamo sempre fatto risultati eccezionali. Ma molte volte era il feeling che si creava con alcuni giocatori, l'armonia, l'allegria. Anche l'anno scorso c'era una grande voglia di far bene. Quest'anno, ripeto, non so cosa c'è, forse è stato cambiato un po' troppo. Però con giocatori importanti. Ma voi, posso fare una domanda? Mi può anche non rispondere. Ma voi avete deciso di comune accordo di... Cioè, che è successo? Perché insomma, il lavoro di questi 7 anni è indiscutibile, credo, no? Sia con Mazzarri che anche con Benitez. Sì, ho avuto la fortuna di essere apprezzato da tante persone. Probabilmente non sono stato apprezzato dagli non so dire. Ma ha chiesto più soldi lei? Ha chiesto più soldi? Lo perdoni, ma Beninazzo pensa sempre sui soldi. Pensa solo ai soldi. Assolutamente no. Anzi, assolutamente no. Io non è una questione di soldi, è una questione di... Io vivo a Napoli, per cui sarei Napoli è meglio di Tirana, insomma, si lavora meglio, grosso modo. Tirana è una città bellissima. Nulla contro Tirana, però insomma, tra Napoli e Tirana. Quindi abbiamo appurato che non ci sono motivazioni sue, per essere andato via. Quindi è stato Sarri che ha scelto. Assolutamente no. Sarri ha scelto di cambiare. Ha scelto di cambiare. Ma è giusto così. Il tecnico deve decidere lui chi portare, chi non portare. Poi il tecnico bravo e intelligente fa delle valutazioni globali. Il tecnico magari ha delle idee particolari, fa delle altre figlie di valutazioni. Io rispetto l'opinione di ognuno, rispetto l'opinione della società, rispetto la decisione, non è un problema per me, anzi io resterò sempre tifoso di questa società, però di certo non sono io che volevo andare lì, però va bene così, insomma, l'importante è lavorare, io qua mi sto divertendo e sto lavorando. Certo, ma che lettura dai vedendo la squadra, vedendo le partite? È chiaro che non segui più gli allenamenti, ma questa sensazione che sia un pochino... in difficoltà dal punto di vista fisico, la condividi? Ma si nota, però ripeto, secondo me è una questione solo di magari qualche defezione che ha un po' minato, diciamo, l'armonia del gruppo, credo. Forse magari la mancanza di una certezza come Albiol, di un punto di riferimento in attacco come Milik, che ha creato un po' di non determinazione nell'affrontare le partite. Sì, ma quello che sorprendeva, che ha sempre sorpreso negli ultimi anni, ha ragione Pardo, quando dice che sì, il Napoli di Mazzarri, così come quello di Benitez, aveva una percentuale di infortuni bassissima. Ora Milik si è spaccato il crociato, quello non c'entra niente. Però era veramente sorprendente tutto sommato l'assenza di infortuni in quelle stagioni. Cosa è dovuta? Io davo molta attenzione alle esigenze dei singoli, per cui si cercava sempre di curare il particolare. Adesso non so se gli altri che tipo di lavoro fanno, però il mio era un lavoro anche di motivazione. Io motivavo, cercavo di dare un qualcosa in più al giocatore. Però, ripeto, è questa la mia sensazione. Vedo giocatori un pochettino spenti. E Higuain come lo vedi? L'aspetto. Ma Higuain è un giocatore, secondo me, è uno dei più forti giocatori al mondo, se non il più forte. E l'approccio all'allenamento è un po' diverso. Io in un'altra intervista ho detto che lui ha grandissime qualità. Il problema è che magari si adagia su queste qualità che ha, avesse un po' più di voglia di cercare di arrivare al primo posto al mondo, probabilmente sarebbe il più grande giocatore attualmente, diciamo, sui campi di gioco. Sì, poi quando arriva un po' inchiattato fa la dieta con i frutti di mare. Ma cioè, lui si adagia sulle sue qualità, lui è un grande, lui ha grandi qualità, si adagia sulle sue grandi qualità. Va bene, mettiamola così. Anche sui piatti. Anche sui piatti, mettiamola così. La ringrazio, grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, quando vuole, sempre a disposizione. E sempre forza Napoli. Begnazzo, vuoi aggiungere qualcosa? No, sono commosso e basta. Sei commosso. Senti, invece, sono commossi anche i signori Toira e Suning, che in questi giorni sono a Milano. Che ci fanno? Stanno cercando di sistemare quello che è l'organigramma del club, capire come va con Pioli. Insomma, hanno promesso a tutto l'ambiente di essere più vicini. Insomma, c'è Steven Chang che sta imparando l'italiano. E io credo che, insomma, da questo punto di vista la società Inter, insomma, sarà meno ondivaga, insomma, nei prossimi mesi avrà un asse più delineato. Ma Tuer quando se ne va? Beh, credo che anche i problemi sportivi abbiano rallentato l'uscita di Toir, per cui non è diventata più una priorità, per cui quando le condizioni, come dire, saranno più tranquille si assisterà anche a quest'altro cambio, però sarebbe inutile in questo momento fare anche un'ulteriore modifica all'assetto societario. Insomma. Intanto c'è un amico di Pardo, un carissimo amico di Pardo, che ha, io non so quanti tappiri d'oro abbia Cassano. Ah, beh, parecchi. Avrà... Io penso sopra, penso sia in doppia cifra. Sì, no, credo di sì, con i tre di ieri. Sì, ieri ne ha beccato un altro. Ma tre. Perché non la schiera la Sampdoria? Perché l'ha messa lì in parcheggio? Cosa sta succedendo? Ma questo è un tasto un po' particolare, visto che mi hanno obbligato a non parlare, mi stanno... Come l'hanno obbligato a non parlare? Non posso parlare perché tante persone, tanti giornalisti stanno richiedendo alla Sampdoria di farmi interviste e loro dicono di no, non posso parlare, però te sei bravo, qualcosa posso dirti. Ma la fanno cambiare insieme ai magazzinieri, abbiamo visto, neanche nello spogliatoio con gli altri. Sì, assolutamente, però non è un problema. Delle volte preferisco spogliarmi con loro che con altre persone. C'è stato un mezzo litigio con il suo braccio destro dopo il derby. Hanno detto che era finito là, che la discussione era partita, era finita là. E poi mi hanno fatto fare il ritiro. Poi è finita tutta. Però poi hanno deciso di dire che sono vecchio, bene. Però gallina vecchia fa buon brodo. Io, essendo un fantasista, qualche giocata molto importante posso farla, occhio. Pardo, che facciamo con Cassano? Ma insomma, io penso che a gennaio, farà qualcosa, credo sia la cosa più razionale, poteva succedere prima, ma credo che non sia successa prima perché lui è un po' un testone e sperava veramente che le cose si aggiustassero con la Samp. Sì, però onestamente essere messo in castigo in questa maniera, ora non so cosa è successo, litigi, però insomma, è un po' una follia, insomma, però poi alla fine bisogna anche guardare la classifica, la Sampdoria è a metà classifica, non... No, ma dal punto di vista umano, professionale, umano, cioè, voglio dire, come umano tu... professionale. Allora, Cassano, secondo me, è una risorsa. È chiaro che nel momento nel quale non c'è un minimo sindacale di rapporti perché le cose possano andare bene, Cassano rischia di diventare anche un boomerang, perché proprio perché non è un giocatore normale, perché è fortissimo, o quantomeno, insomma, è potenzialmente fortissimo se si... E quindi la scelta di tenerlo fuori aveva una sua logica. Poi era una scelta irrazionale e a me dispiace da matti, ovviamente, che sia fuori, non soltanto perché gli sono amico, ma anche perché da appassionato di calcio è ovvio che secondo me che ci, perdiamo qualcosa. Ma tu in che però, squadra lo vedresti? Ma io, cioè, nelle squadre, guarda, lui aveva uno aveva con le sue caratteristiche, un'ipotesi Palermo, secondo me, che poteva essere interessante, e la situazione del Palermo in qualche modo dimostra che poteva essere un'ipotesi interessante. L'idea dell'Entella è in qualche modo romantica, perché l'Entella è un nuovo Chievo, diciamo, no? È una squadra con una forte società, però piccola ovviamente dal punto di vista del nome, e quindi una quindicina d'anni dopo sogna la Serie A con vedo più difficile Bari come soluzione. E poi ovviamente, insomma, sai, lui è anche un po' pigro, nel senso, perlomeno lo è stato fino adesso, ma magari adesso si è rotto le scatole di essere pigro, nel senso che uno molto innamorato del suo ambiente, è innamorato di Carolina, è innamorato della Samp, e quindi ci ha creduto fino all'ultimo di poter rimanere lì. Non ce lo vedo tanto a Dubai o in America, però magari invece gli è venuta voglia adesso, fra l'altro sono in vacanza settimana scorsa, magari si è divertito. Secondo me è una voglia matta di giocare, punto e basta. Ma quello sicuro, anche quello perché sicuro. Se c'è una cosa che poi forse è stata addirittura il suo limite, è che gli piace tanto giocare. La verità è che lui è rimasto sempre, ed è il motivo per il quale in tanti lo amano, è rimasto sempre un ragazzo a cui piace giocare a pallone, un professionista che vuole vincere. Ecco. Chiudiamo qui, ragazzi. Grazie per presto. Grazie Marco Berinazzo, Giorgio Drugo, il nostro dottore Gianmarco Perronati, regia del Vice Fazzone in redazione. A Vice Fazzone, Caltanissetta. Caltanissetta. Salutiamo. Ci sentiamo domani alle 2. Forza.